4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata amici di Radio 24, buona serata a tutti gli appassionati di motori. Ogni sabato alle ore 21 per tre quarti d'ora si parla proprio di loro, di questo appassionante mondo delle auto, delle moto. Ci sono tanti saloni di cui parleremo in questa trasmissione, partendo dalla prova della Chevrolet Cruze con Marco Ghezzi di Quattro Ruote, a cui do subito il buonasera. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Poi parleremo di analisi del mercato con il professor Malagodi e ancora fra pochi minuti di flotte aziendali e fiscalità con la NIA. Ma partiamo subito dalla Chevrolet Cruze. Marco, che tipo di auto è? Beh, è una berlina quattro porte di 4,60 m, un'auto per famiglia, confortevole, sicura, un'auto soprattutto a un prezzo decisamente competitivo, il rapporto qualità-prezzo è veramente buono. Allora siamo pronti a sentire le caratteristiche principali, quelle tecniche e anche il prezzo di questa Chevrolet Cruze. Qualità discreta, dotazione ricca, consumi bassi. Ecco gli ingredienti della nuova Chevrolet Cruze, che si getta nel segmento delle berline tre volumi senza timori reverenziali, anche in virtù dell'ottimo rapporto qualità-prezzo. Difficile trovare concorrenti più economiche che offrano anche quel giusto mix di sportività ed eleganza, una tecnica d'avanguardia e prestazioni di tutto rispetto, qualità di cui la Cruze dispone. Ottimo il bagagliaio, migliorabile la frenata. Nome: Chevrolet Cruze 2000 Diesel LT. Carrozzeria: 4 porte a 5 posti. Dimensioni e pesi: lunghezza 4,59 metri, larghezza 1,78 metri, peso 1420 kg. Motore: anteriore trasversale 4 cilindri diesel. Potenza 150 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce. Prezzo 18.451 euro. Allora, queste sono le caratteristiche principali della Chevrolet Cruze. Dicevamo prima anche nella scheda un'auto per famiglia, tre volumi, eppure so, Marco, che viene apprezzata anche da chi è giovane per via di un design che sembra azzeccato. Sì, il design è decisamente azzeccato, quindi è un'auto che, diciamo, da quel punto di vista potrebbe fare concorrenza ad auto ben più prestigiose della stessa categoria, ma il punto fondamentale vincente di quest'auto secondo noi è il prezzo, che è davvero un prezzo strepitoso. Se consideriamo che allo stesso prezzo possiamo magari comprare soltanto una Panda 4x4, una 500 Cabrio, insomma è un prezzo che in rapporto a quello che offre un'auto di 4,60 m per 5 persone con un 2000 turbo diesel di buone prestazioni, è difficile trovare qualcosa di meglio. Cosa c'è dietro questa strategia così aggressiva e come sono riusciti coi piani industriali a raggiungere questi risultati? Questo bisognerebbe forse chiederlo ai signori della Chevrolet. Io credo che il prodotto è un buon prodotto, realizzato in modo, diciamo, senza esagerare con quello che riguarda, per quello che riguarda, diciamo, l'accessoristica, senza esagerare nelle finiture di super lusso, ma con un buon equilibrio tra quello che viene offerto come contenuti e il prezzo, e il risultato viene fuori. Decisamente. Senti, per quanto riguarda pregi e difetti, se proprio dovessimo eleggere due pregi e due difetti, che cosa potremmo dire ai nostri ascoltatori di questa Chevrolet Cruze? A parte il già citato rapporto prezzo-qualità, io direi che è anche un buon bagagliaio questa macchina, mentre per quello che riguarda i difetti, probabilmente il più importante che abbiamo verificato sono gli spazi di frenata, che sono effettivamente piuttosto lunghi, e qualche piccolo, diciamo, difetto di finitura, qualche dettaglio ancora da curare, ma diciamo stiamo cercando il pelo nell'uovo. Certamente, come avviene quando un'auto comunque funziona e ci soddisfa, e beh, insomma, siamo sempre desiderosi di cercare il pelo nell'uovo, però ugualmente. Senti, per quanto riguarda invece la dinamica del veicolo, ci racconti come si comporta su strada nei diversi settori, segmenti in cui l'avete provata? Sì, la dinamica della vettura si comporta come un'auto tranquilla, turistica, per famiglia, con però un comportamento sincero, quindi non dà nessun tipo di problema, è molto confortevole, è dotata anche di ESP e quindi è un'auto per chi vuole fare tanta strada, con un buon comfort, sicurezza, e risparmiando anche perché fa di media circa 13-14 km con un litro di gasolio, che inizia a essere interessante visti i tempi che corrono. Si sta di nuovo rialzando il prezzo del carburante, quindi insomma bisogna riuscire a risparmiare. Secondo te, parlavamo dunque di famiglia, l'utilizzo corretto di questa vettura, ti chiedo quindi in parte il target preciso sul mercato italiano secondo voi, per quanto possiamo dire, e l'utilizzo preciso, quindi è più indicata per farsi il giro su extraurbano oppure lunghi viaggi su autostrada con due o con quattro occupanti? Beh, senz'altro è un'auto che dà il meglio sui lunghi percorsi, quindi per i viaggi lunghi, per la famiglia, in autostrada, però tutto sommato, nonostante le dimensioni di 4,60 m, ci si muove bene anche nel traffico, perché sostanzialmente è anche abbastanza agile come vettura, quindi preferibilmente un'auto per lunghi viaggi, ma tutto sommato si può usare anche in città. Molto bene, vorrei ringraziare Marco Ghezzi di Quattro Ruote. Grazie Marco e buona serata. Grazie a tutti, arrivederci. Noi adesso chiudiamo la prova della Chevrolet Cruze con la pagella di Quattro Ruote che ascoltiamo con la voce del nostro speaker. Posto di guida. Si può guidare lunghi, ma anche corti. Peccato manchino le regolazioni elettriche. 4 stelle. Finiture. Rapporto prezzo-qualità decisamente superiore. Qualche pecca qua e là, dentro e fuori l'abitacolo. 3,5 stelle. Comfort. Confortevole per 4 persone, con qualche limitazione di spazio dietro. Rumore contenuto. 4 stelle. Su strada. Impostata per raggiungere un buon compromesso di guidabilità. ESP efficace. Bene sul bagnato. 4 stelle. Allora, questa era la pagella con i voti che chiude la prova di questa settimana. Vi ricordo Chevrolet Cruze, potete naturalmente trovare la foto della Chevrolet sul nostro sito radio24.it nella sezione programmi. 4 ruote dintorni è il 4º programma, se non sbaglio, in ordine alfabetico, perché lo sapete, iniziamo nel titolo con il 4. Però maggiori informazioni dai nostri partner, ovviamente www.4ruote.it, c'è la ricerca prova per prova, casa per casa, così potrete vedere una photo gallery ben più completa e tutti i dati, le caratteristiche di questa vettura provata naturalmente dai giornalisti di Quattro Ruote. Come promesso, adesso ci occupiamo di un argomento molto importante, un argomento che riguarda un po' tutti noi che lavoriamo, soprattutto le aziende per le quali lavoriamo, e cioè le flotte aziendali, noleggio a lungo termine, soprattutto tutto ciò che fa parte di quel convegno che si è tenuto questa settimana sullo stato di salute del settore di cui sopra, cioè autonoleggio, servizi automobilistici. Tutto fa parte di un'associazione, si chiama ANIASA, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. Abbiamo la possibilità di farci raccontare quali sono stati i frutti principali di questo convegno che si è tenuto a Roma in settimana dal presidente Roberto Lucchini. Allora, intanto buonasera, bentornato presidente. Buonasera a lei, grazie di averci chiamato. Io so che fiscalità è una delle parole che citeremo più spesso in questo suo intervento. Ci vuole però fare il sommario dei 2-3 punti caldi di questo convegno? Il sommario in questo convegno, noi abbiamo visto quello che, come anche in questo settore, si è avuta un impatto della crisi che abbiamo in corso e che tutti conosciamo, che si è manifestato con un rallentamento dello sviluppo del fatturato del mercato del noleggio delle flotte aziendali e con un calo obiettivo del noleggio invece a breve termine, per effetto del minor traffico di viaggio per lavoro e del minor turismo che è arrivato in Italia. Per quanto riguarda poi i risultati, quello che abbiamo evidenziato in questo convegno è il fatto che questo settore ha registrato, in controtendenza con l'andamento delle immatricolazioni delle vetture in Italia, ha invece registrato un calo dell'immatricolato per quanto riguarda sia il settore flotte aziendali sia per quanto riguarda il breve termine. E questo è da mettere in relazione al fatto che si ha un rallentamento della richiesta di nuove vetture per le flotte aziendali, perché queste comunque sono uno degli elementi di costo su cui le aziende, i nostri clienti, quindi il sistema produttivo italiano, deve giustamente fare attenzione. Sì, è una di quelle voci, è una di quelle voci che hanno tagliato a livello di budget sicuramente, anche scoprendo in effetti che un'auto dopo 12 o 24 mesi in realtà va ancora molto bene, si può dire anche questo, perché poi sono in ordine, sono controllate, voi fate in modo che tutto prosegua. Però certo, il giro, quello degli anni scorsi, che aveva portato ad ottimi risultati l'anno scorso, era quello di riuscire ad avere un turnover abbastanza elevato per poi, mi dica se sbaglio, reimmettere sul mercato le auto che escono da noleggio a lungo termine a livello di usato. Correttissimo, il ciclo di vita delle vetture che il nostro settore utilizza come strumento è indubbiamente il più breve che c'è nel mondo dell'auto, perché va dai massimo tre anni delle vetture di noleggio a lungo termine, quindi rispetto alla media italiana che, se non erro, è intorno ai 6-7 anni. Sì. Qui parliamo invece di 3 anni per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, per scendere addirittura ai 6 mesi quando parliamo di noleggio a breve termine. Quindi sono vetture molto fresche che entrano nel sistema e quindi di fatto questo settore costituisce anche un acceleratore del rinnovo del parco auto. Ecco, senta, ci fa capire, Presidente, arriviamo un po' al cuore della nostra chiacchierata, quanto siamo indietro rispetto agli altri paesi europei a livello di fiscalità. Mi ricordo 2 anni fa, in questo convegno di cui stiamo parlando, avevate detto che c'erano stati notevoli passi avanti, proprio anche legislativi, però eravamo ancora indietro, cioè si può scaricare poco il costo, si può dedurre l'IVA non completamente. A che punto siamo? Ci fa il punto della situazione? Le do solo dei numeri, molto velocemente. La quota ammortizzabile in Italia è al 40%, in Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna è al 100%. Il costo dell'ammortizzabile in Italia è 7.200 euro, in Francia e in Gran Bretagna intorno ai 18.200-18.300, illimitato in Germania e in Spagna. La detraibilità dell'IVA in Italia è al 40%, in Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna al 100%. Questo credo che si commenti da solo. Molto bene. Senta, che cosa si può fare per migliorare questa situazione e poi ci salutiamo? Ma un intervento che rivisiti questo sistema del trattamento fiscale potrebbe essere l'occasione per ridare non direttamente a chi fa autonoleggio, ma al sistema produttivo un abbassamento di un costo e quindi una motivazione in più a utilizzare meglio questi strumenti, che costituirebbero quindi un beneficio per il sistema produttivo, indirettamente ovviamente per il nostro settore, e ancora più indirettamente costituirebbero un incentivo a riaumentare le immatricolazioni dal nostro parte. Decisamente, speriamo ci sia una ripresa, così come sta avvenendo anche sulle immatricolazioni del nuovo, anche a livello privato, dopo gli incentivi, anche se anche questi vanno un po' contro a certe filosofie dell'autonoleggio. Grazie per ora al presidente di Aniasa Lucchini, a presto e buona serata, presidente. Grazie a lei, buonasera. Adesso togliamo 2 ruote, rimaniamo sulle moto invece, perché è in attuale svolgimento fino a domani sera, domenica, all'EICMA, che è a tutti gli effetti uno dei 2-3 appuntamenti mondiali più importanti per il motociclismo. Si tiene a Milano, a mezz'ora dal centro circa, a Rho, nella nuova fiera, che tra l'altro vi consiglio di visitare nel caso non l'aveste ancora fatto, ed è uno degli appuntamenti più attesi. Certo, la mancanza dei 2 colossi, Yamaha e Honda, ha gettato un po' di scompiglio, no, fra gli organizzatori inizialmente, perché non avere i 2 grandi produttori è sicuramente un handicap. Eppure è tutto esaurito, c'erano tante aziende in attesa che non hanno potuto esporre i propri prodotti, sintomo di un settore che sta vivendo forse meglio questi tempi rispetto a quelli delle 4 ruote, e quindi abbiamo al telefono Fabio Cormio di 2 ruote, che su questo ci illumina. Caro Fabio, direttamente dal salone, buonasera. Ciao Roberto, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Prima di tutto mi scuso perché probabilmente sentirete insieme alla mia voce anche tanto tanto rumore. D'altra parte qui all'EICMA è così, chi se lo aspettava, certo, come una fiera un po' in declino, ecco, sbagliato decisamente, perché la gente qui è tantissima. Tantissime le luci, i balletti, le belle ragazze e naturalmente le belle moto. Insomma, queste sono le fiere, questi sono i saloni in cui spesso siamo chiamati a lavorare, anche per riportare, no, ai nostri ascoltatori quelli che sono i prodotti migliori che per la prima volta trovano una vetrina. Vorrei con te iniziare dalla Ducati, iniziamo subito dal Made in Italy. Quali novità ti hanno colpito che vuoi raccontare agli ascoltatori? Sì, avrei cominciato proprio dalla Ducati, anche se non me l'avessi chiesto, perché Non era calcolato stavolta. No, è la regina indiscussa del salone, più che altro non c'era molto così, non c'era molta scelta. Non perché manchino le altre proposte, ma la nuova Multistrada 1200 presentata dalla Ducati è davvero, lo ripeto, la regina del salone, perché non c'entra più niente con la Multistrada che a molti fece storcere il naso in passato. Non ha più il motore raffreddato ad aria, ma è un 1200 a liquido, che è il testa stretta, quindi un motore derivato da quello della 1198, quindi la sportivissima di casa. In questo caso si chiama testa stretta a 11 gradi, dove 11 gradi è l'angolo di incrocio delle valvole, un po' complessa la spiegazione tecnica, di fatto è un motore molto molto più sfruttabile, o almeno così promette la casa. Certo. La vera grande novità di questa moto sono i 4 riding mode, cioè le 4 tipologie di guida selezionabili direttamente con un tasto al manubrio, che permettono davvero di trovare 4 impieghi diversi dall'autostrada alla guida sportiva, addirittura all'enduro, è la guida cittadina. Addirittura, questa è la nuova multistrada che vi aspetta nel Salone Ducati. Passiamo alla principessa. Se lei è la regina, chi è la principessa del Salone? Principessa direi che allora è la MVF4, che si rifà il trucco senza esagerare. Del resto è stata nominata per anni la moto più bella del Salone, se non la moto più bella del mondo. Quindi adesso non poteva stravolgersi nell'estetica. Le carene sono però più attillate, il motore è un 998 cc, altissima la potenza, oltre 180 cavalli, del resto ormai le ipersportive hanno queste potenze, il peso è sceso intorno ai 190 kg, che non sono pochissimi, se non la rendono, diciamo, la regina della categoria dal punto di vista della prova della bilancia, la rendono comunque più competitiva. È chiaro. Per quanto riguarda invece, visto che stiamo facendo il podio, il terzo posto, a chi dai la medaglia di bronzo? Personalmente sarei in dubbio. Devo però segnalarti che il pubblico è rimasto molto molto colpito dal prototipo BMW, dalla nuova 6 cilindri Concept 6, con questi 6 cilindri in linea, una naked con 6 cilindri in linea, una Street Fighter potentissima, che chissà se andrà in produzione. Il pubblico la sta richiedendo a gran voce, noi su Moto Online arrivano commenti a decine e decine per dire che questa moto è fantastica, sembra di fatto una sorta di astronave, come una K1003R però al nandrolone. Molto bene, questo era il podio dell'EICMA, visitabile fino a domani sera vicino a Milano. Ne parleremo ancora, poi vi suggerisco di andare a vedere le più belle foto e anche i video su motonline.com, il sito di Due Ruote, da cui ci parla Fabio Cormio. Grazie davvero Fabio, a presto e buona serata. Grazie, e chi vuole io lo aspetto qui allo stand di Due Ruote. Molto bene, c'è anche lo stand di Due Ruote, quindi andate a visitarlo, magari c'è l'opportunità di ricevere anche qualche sorpresa, qualche regalo, qualche copia del la rivista. Ultima parte di Quattro Ruote Dintorni, dedicata al mondo delle auto naturalmente. Da una parte l'analisi di quella che era la kermesse più importante, ma in realtà lo rimane sebbene unica anche quest'anno, il Motor Show, e poi l'analisi del mercato a un mese e mezzo dal termine di questo discusso 2009, che però ha fatto registrare per la quinta volta consecutiva un rialzo percentuale sulle nuove immatricolazioni. Quindi in ordine, prima il direttore Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote. Buonasera Mauro. Buonasera a voi. Allora, caro direttore, qui ci sono tante notizie che riguardano i primi giorni di dicembre. Intanto, non tutti ancora lo sanno, anche se i più attenti l'hanno letto ovunque, la notizia che si è sparsa è che salta il Motor Show. Vogliamo subito dire che non è vero? No, assolutamente. Il Motor Show si terrà, anche se sarà un'edizione, come dicono loro, speciale. In realtà è un'edizione un po' ridotta, nel senso che invece dei soliti 10 giorni, quest'anno saranno 5. Il motivo ovviamente è la crisi che c'è stata in questo 2009, soprattutto perché la crisi era molto molto forte quando appunto le case dovevano decidere se partecipare o meno al Motor Show. È ovvio che una cosa del genere non si decide all'ultimo momento, no? E quindi quando a maggio-giugno appunto dovevano pianificare la presenza al Motor Show, molti hanno preferito dire non andiamo con i soliti grandi stand degli altri anni, e a quel punto il Motor Show ha dovuto rivedere completamente la formula. Ti ricordi, direttore, l'anno scorso forse una avvisaglia l'avevamo avuta dal gruppo BMW, quindi Mini, tutti i marchi, che aveva saltato il Motor Show. Qualcuno maliziosamente aveva detto, insomma, risparmiano alcuni milioni di euro. È anche un costo notevole fare un salone del genere, no? Assolutamente, sì, direi che ci sono addirittura case che, case tedesche, che per il Salone di Francoforte spendono cifre superiori ai 10 milioni di euro, quindi stiamo parlando veramente di manifestazioni molto costose. C'è a livello, diciamo, internazionale una tendenza ormai a privilegiare i grandi saloni, che in Europa sono soprattutto Ginevra e ad anni alterni Francoforte o Parigi, e a ridimensionare o addirittura a cancellare la propria presenza ai saloni cosiddetti regionali, che sono in realtà saloni nazionali, quindi Bologna, Barcellona, Londra eccetera. Ovviamente anche Bologna paga questo tipo di situazione, però devo dire che è riuscita comunque ad allestire un'edizione più che dignitosa, perché tutta la parte, diciamo così, di attrazione sportiva, e quindi la Ferrari col pit stop, il Memorial Bettega e tutta una serie di altre corse nel solito anello ci saranno, e ci saranno anche un pochettino di automobili da vedere sotto varie formule, insomma. Ecco, perché è un peccato se no per quella quasi milionata di visitatori che in 10 giorni negli ultimi anni avevano affollato, devo dire con grandissima passione, vedendolo anch'io insieme a voi dal vivo, tutto il Motor Show. Che cosa troveranno? Troveranno una kermesse più sportiva, quindi meno prodotti ma più piloti, più campioni, più gare? Sì, anche se noi abbiamo deciso, e posso a questo punto annunciarlo, di essere presenti come quattro ruote, portando noi a questo punto tutte le novità di prodotto che di fatto saranno le protagoniste nel 2010, quindi noi avremo un grande stand come quattro ruote in cui ci saranno, adesso il numero è in definizione, ma io direi 15-16 marche, tutte porteranno a Bologna due automobili, una sarà statica semplicemente da ammirare e una invece si potrà provare previa prenotazione sul nostro sito, in questi spazi che appunto si sono aperti alla Fiera di Bologna, e quindi sarà un'occasione veramente unica, tanto per dire ci saranno per esempio la Porsche Panamera piuttosto che la Punto Evo che è stata appena presentata, la Mito col nuovo motore Multi-Air, la nuovissima Citroen C3, l'altrettanto nuova BMW X1, insomma ci saranno macchine estremamente valide, estremamente importanti, con la costante che Quattro Ruote ha sempre avuto al Motor Show in tutti questi anni di poterle non solo vedere e toccare, ma proprio provare in un percorso di prova dedicato, e questo credo che non sia una cosa così comune. Insomma. Così comune, certo. Poi pensiamo a tutti coloro che si spostavano anche lontano da Bologna e raggiungevano il capoluogo, insomma, dell'Emilia Romagna per che vivere. Quest'anno pagheranno un prezzo del biglietto dimezzato, perché infatti, anche questo è un altro provvedimento che è stato preso, credo giustamente. Ci arrivavamo e penso sia una mossa molto intelligente. L'ultima domanda è la più difficile per te, direttore: il futuro. Visto che il Lingotto, qualcuno se lo ricorda ancora con la lacrimuccia, ed era il vero salone italiano. Poi il Motor Show ha ereditato in parte tutta la passione ed era diventato una grande kermesse di pubblico. Secondo te che cosa succederà nel 2010, o dobbiamo per forza legarci all'uscita della crisi nel settore automobilistico? Questa è una bella domanda, nel senso che io credo che le case stiano aspettando di vedere che cosa succederà quest'anno, nel senso che se il Motor Show riuscirà ad attrarre un numero di visitatori comunque consistente, penso che dopo la lezione purtroppo subita anche senza loro colpa a seguito della crisi quest'anno, il prossimo anno loro partiranno per tempo per fare un nuovo Motor Show che sia di nuovo attrattivo per le case, anche se magari non con le metrature e le grandeur che c'era fino al 2008-2007, perché temo che quel modello sia un pochettino finito. Però il Motor Show è sempre stato un salone di pubblico, tu citavi prima i numeri impressionanti del passato, appunto la milionata. Io ricordo che un salone celebrato come Francoforte quest'anno non ha fatto più di 700.000 visitatori, quindi in realtà Bologna è sempre stato un salone visitato ed è sempre stato un salone soprattutto di giovani, e i giovani ovviamente interessano molto al mondo dell'auto, che fa un po' fatica a entrare in sintonia con questo tipo di pubblico. Quindi io penso che l'Italia tutta farebbe un grave errore a disperdere un patrimonio come questo salone, e non a caso noi abbiamo intitolato la nostra presenza di quest'anno Quattro Ruote c'è, proprio per rimarcare il fatto che noi vogliamo che questo salone prosegua, anche se un pochettino, come stiamo facendo tutti, deve rivedere le proprie strategie cercando di ricalibrarle in un mondo che non è più quello che ci siamo lasciati alle spalle, perché ovviamente un mondo più sostenibile. Chiaro. Insomma, tutta una serie di concetti di cui a Radio 24 si parla dalla mattina alla sera, quindi che non ho bisogno di ripetere qua, e che ovviamente anche il Motor Show deve fare propri. Questa è la strategia che si deve obbligatoriamente mettere in pratica in tutti i settori aziendali: chi più veloce è, più elastico è ad adattarsi alla situazione, ne esce prima. Molto bene, grazie. Allora l'appuntamento è i primi di dicembre con anche Quattro Ruote, ma tutta la kermesse di Motor Show. Grazie Mauro Tedeschini, a prestissimo. Grazie a voi, aspettiamo tutti a Bologna al nostro stand a questo punto. Ringraziando allora il direttore di Quattro Ruote Mauro Tedeschini, passo invece la palla all'analista del Sole 24 Ore, il professor Paolo Malagodi. Allora buonasera e ben trovato professore. Ben ritrovato Roberto, a lei e a tutti gli ascoltatori. Questa volta abbiamo atteso qualche giorno in più nella consueta analisi che facciamo a inizio mese sulle auto nuove immatricolate nel mese precedente, perché ci dà una piccola anteprima importante però su quanto verrà pubblicato sul Sole 24 Ore lunedì. Professore, lei ha scritto un articolo che vorrei che raccontasse nelle sue forme massime agli ascoltatori. Sì, l'articolo è già impaginato e lunedì apparirà sulla pagina Motori del Sole 24 Ore come analisi di un mercato che, al di là delle apparenze, soprattutto quello di ottobre, che ha avuto questo aumento di quasi un 16%, 195.000 immatricolazioni rispetto alle 169.000 dell'anno precedente, e poi pensando a un novembre che abbiamo appena iniziato e che l'anno scorso fu un mese da circa 139.000 unità, un mese di livello bassissimo, beh, quest'anno pensare a 170.000 significa avere un aumento ipotetico del 22%, ma siccome io credo che si possa andare anche a 180.000, poi spiegheremo il perché, sarebbe un aumento di quasi il 30%. Allora gli ascoltatori che hanno sentito per tutti questi mesi il mercato in crisi dicono: ma scusate, Managodi e Roberto Rasia, ci avete raccontato delle frotte? Perché qui, con un mercato che questo mese cresce del 16%, che il mese prossimo in prospettiva, mal che vada, è al più 22, potrebbe andare anche al più 30%, beh, allora cosa ci avete raccontato? E su questo il pezzo che appare lunedì nella pagina motori, ripeto, del Sole 24 Ore, dice: attenzione, dobbiamo fare qualche rilievo critico, capire come questo è avvenuto e come potrà ancora avvenire. Perché questa volta ci sono dei dati che provengono da un'associazione dei concessionari italiani, si chiama Federaicpa, che lei ha ricevuto, e che dicono delle cose importanti sugli ultimi 3 giorni lavorativi del mese di ottobre, vero? Beh sì, perché gli ultimi 3 giorni lavorativi? Perché un mese ha una sua cadenza che inizia con un primo giorno lavorativo, poi se ne va in un certo ordine. Notiamo che ottobre ha 22 giorni lavorativi, per giorni lavorativi si intendono quelli utili per le registrazioni presso il centro elaborazione dati del Ministero dei dati immatricolativi, che vanno dal lunedì al venerdì. Quest'anno poi l'ultimo giorno era un sabato, allora il sabato le case, le marche avevano facoltà di mettere direttamente delle quote di noleggio. Questo significa che un mese che era atteso a non più di 185.000 unità fino all'ultimo giorno lavorativo, fino al fatto che conoscevamo venerdì mattina i dati riepilogativi di tutto giovedì, in questo giorno più un appendice del sabato è andato a 195.000, un dato del tutto inaspettato, ma la ragione c'è. È chiaro che quando alcune marche, e diremo quali in particolare, negli ultimi 3 giorni lavorativi fanno una quota di mercato che è il 45% e passa del totale, o il 57% e passa del totale, allora cosa vuol dire? Che i concessionari negli altri 19 giorni sono stati a girarsi i pollici? Vuol dire che di colpo la gente è andata a correre alle concessionarie? Beh, insomma, il mercato degli ultimi 3 giorni, per una serie di ragioni che, se volete, diciamo anche, non è esattamente un mercato spontaneo. Cambiando semplicemente una vocale diventa, tra virgolette, un mercato spintaneo, spinto cioè dalle case che, essendo in difetto di quota immatricolativa, rimediano con ogni mezzo, da chilometri zero a immatricolazioni pro forma di noleggio, a delle quote che fino a quel momento sono state scarse, e questo mese una volta tanto erano scarse quelle del gruppo Fiat e in particolare la stessa marca Fiat, quella Alfa Romeo un po' Lancia. Cioè, ad esempio, Fiat aveva fino al venerdì una quota di circa il 21%, 21,5%, ha chiuso il mercato col 25,14%, in linea con i suoi andamenti mensili. Certo, ha fatto il 45 rotti delle immatricolazioni negli ultimi 3 giorni, su un totale di 49.000 ne ha fatte 22.000 negli ultimi 3 giorni, e questo è possibile. Addirittura clamoroso il caso di Alfa Romeo, che è in deficit strutturale del prodotto, salvo la valida mito, che si presenta con una quota finale del 2,5%, 2,46, però partendo da un dato che prima degli ultimi 3 giorni era poco superiore all'1%, perché negli ultimi 3 giorni ha fatto il 57% delle immatricolazioni. Questo è davvero un mercato spintaneo, come l'ha chiamato lei, cioè c'è questa immissione negli ultimi giorni di tanti ordini che poi si teme vadano in realtà a riempire dei piazzali. Le informazioni che troverete nell'articolo del professor Malagodi, devo dire che andranno a colmare i pochi buchi che abbiamo lasciato fin qui nella spiegazione, quindi l'appuntamento è in edicola per lunedì nel segmento, ovviamente nel settore motori del Sole 24 Ore ci sarà il suo articolo. Io tanto la ringrazio per questa anteprima, professore, ma ci risentiamo fra 2 settimane per capire novembre come è andato. Grazie e buona serata. Per capire se davvero saranno solo 170.000 o non addirittura 180.000. Addirittura, lo vedremo davvero. Grazie per ora al professor Malagodi, con la sua voce termina anche la nostra trasmissione, che però ritroverete sabato prossimo alle ore 21. Paolo mi ha fatto compagnia in regia, Roberto Rasia vi ha parlato, vi auguro un buon weekend, ma soprattutto una buona guida.